Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Care amiche, cari amici, buongiorno. È giovedì, si mangia mangia con me. Il primo reality radiofonico per imparare a mangiare bene, per stare meglio. Intanto voi come state? State seguendo i nostri consigli? Avete provato qualche ricetta? Insomma, se l'appetito vi è mangiando, mangia con me. Vi ha fatto almeno venire voglia di mangiare bene? Meglio? Parliamone. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, siamo in diretta 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e Twitter, insomma le occasioni non mancano per stare in contatto con noi. E intanto voglio presentarvi una nuova amica e sono certa che vi piacerà molto. Loredana, ho 48 anni, sono sposata, ho due figli, Saura e Stella. Vivo a Carano Varesino in provincia di Varese e sono anche da poco nonna. Mi piace lo sport, mi piace nuotare, amo la subacquea, mi piace immergermi nei miei laghi e faccio anche yoga da qualche tempo. E yoga lo faccio per tornare un po' agile, risolvere un po' i miei problemi di schiena e anche di mente. Ora questa mozzarella. Mettici tu. Questo è venuto intero. Vabbè. Quando vengono i miei amici, le cose che preferisco fare sono le paste cucinate un po' in tutti i modi, un po' al ragù, al forno, mi piace anche farla la pasta e quindi sono un po' famosa per i miei tortellini e le mie paste al forno. Quando c'è qualche avanzo di pasta lì in cucina che mi guarda, mi viene la tentazione di mangiarmelo. Avendo avuto un attimino problemi di lavoro, mi sono un attimino ributtata nel cibo. Tornare a casa e la soddisfazione era, mi consolo mangiandomi un pezzettino di pasta, un panino, un pezzettino di pizza, un salatino, perché no, mi dicevo. E quindi l'occasione è diventata quasi un'abitudine. Allora, il mio obiettivo è rimettermi in gioco e per rimettermi in gioco voglio tornare nella mia muta da sub che mi sta troppo stretta e mi condiziona la mia tecnica, il mio modo di vivere, mi fa sentire proprio un leone marino imbranato e vorrei tornare in forma anche perché se mi dovesse capitare l'opportunità di trovare un lavoro, ritorno anche nei miei abiti da consulente. Benvenuta Loredana, che ha deciso di dare un giro di vita alla sua vita partendo proprio dal suo giro vita. Adesso si sente un leone marino imbranato. Noi donne sappiamo essere così spietate quando parliamo di noi, questo potrebbe essere lo spunto per una puntata. Ma tornando alla nostra amica Loredana, vuole rientrare nella sua muta e perché no, nei suoi tailleur. Intanto benvenuta Loredana. Buongiorno, benvenuti a tutti. Giro vita e giro di vita. Sì, questo è un lapsus, cioè mentre scrivevo ho notato che ho usato proprio questa espressione, ho scritto giro vita come sinonimo di giro vita e rileggendola mi sono detta ma forse questa parola può già darmi qualche indizio. È vero Loredana, allora subito ti accontentiamo perché in linea con noi abbiamo il nostro dottor Francesco Aquilar, psicologo e psicoterapeuta cognitivo. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Loredana e a tutti i nostri ascoltatori. Dottore, Loredana sente che è arrivato il tempo di cambiare e vuole partire proprio dal suo rapporto con il cibo, che negli ultimi anni ha appesantito un po' il suo giro vita. Il legame tra cibo e emozioni è molto stretto, ne abbiamo parlato tante volte, ma il caso di Loredana ce lo riporta di nuovo in trasmissione. Ma Loredana è stata anche aiutata dal rapporto col cibo, che sembra essere stato un modo con il quale lei è riuscita a superare una fase difficile. Adesso questo salvagente che l'ha aiutata, ora che diciamo non sta più nel mare tempestoso, è inutile che fa il leone marino e sono molto contento che abbia preso questa decisione, perché noi possiamo usare il cibo come elemento di conforto e di rassicurazione, ma solo nell'emergenza. Passata l'emergenza facciamo bene a cominciare a capire come ricevere conforto, rassicurazione e programmazione da altre cose, riportando il cibo al valore normale. Dottor Aquila, era proprio così. Noi siamo emotivamente influenzati dal cibo e sarebbe interessante provare a capire quale alimento, quale piatto leghiamo ad un nostro stato emotivo. Quando siamo allegri, che cosa ci viene voglia di mangiare, o al contrario, quando siamo tristi, un po' malinconici, qual è l'alimento o il piatto che ci tira un po' su? Sicuramente. E in particolare noi dobbiamo imparare ad usare l'alimentazione come elemento per modulare le nostre emozioni, non per affossarci dentro le nostre emozioni. Quindi se io sono triste e mangio un intero barattolo di crema al cioccolato col pane per tirarmi su, mi affosso ancora di più. Se invece mi coccolo con un brodo caldo se fa freddo o con una cosa non eccessivamente calorica che mi dà semplicemente una carezza, faccio una buona operazione. Noi potremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori di raccontarci, per esempio su Facebook, i loro alimenti per tirarsi su e non piuttosto per affossarsi, e fare poi un commento. Certo, quindi scrivete su Facebook gli alimenti che usate, a cui ricorrete per quando siete particolarmente contenti, gli alimenti che vi danno gioia, e il dottor Aquilar vi seguirà su Facebook. Grazie, dottor Aquilar. Grazie. Prima di salutarla, ci dica lei, quando è allegro, di buon umore, quale cibo preferisce? Quando sono allegro preferisco il cibo che ha segnato i momenti belli della mia vita, quindi uno spaghetto alle vongole. Certo, da Napoli, quale piatto migliore? Grazie, dottor Aquilar. Grazie a voi, buona giornata. Sapete, quando il dottor Cox è di buon umore, beh, emana una specie di vento rinfrescante che solleva il morale di tutti quelli che tocca. Oh, che giorno scoppiettante! Chissà di che umore è il nostro dottor Filippo Ungaro, che, come ha ribattezzato un nostro simpatico ascoltatore ieri in trasmissione, il Filippo. Buongiorno! Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, sono di ottimo umore anche se al freddo, anche perché sono lontano, sono in Germania e fa più freddo che in Italia, ma sono di buon umore. Dottor Ungaro, Loredana sta attraversando un periodo un po' difficile dal punto di vista lavorativo, in questo momento è tornata a fare la casalinga a tempo pieno e ci racconta che gli stuzzichini hanno preso il sopravvento sul suo girovita. Loredana, è così? È vero, lo stuzzichino ti stimola, ti fa venire voglia di mangiare, di stare bene. È una coccola. Non so come dirlo, se sapessi dare una risposta sarei già avanti forse, però mi dà l'opportunità di sentirmi bene, però ne sto esagerando. Dottor Ungaro, intanto ricordo ai nostri ascoltatori che possono intervenire all'800 24 00 24 per raccontarci qual è il piatto che legano a un loro particolare stato emotivo, ma anche vi invito a chiamare se vi riconoscete un po' nel profilo di Loredana. Loredana è tornata a casa, quindi la casa la accoglie e in qualche modo questo suo cambiamento ha modificato anche il suo stile alimentare, tanto che ricorre con più frequenza a spuntini e questi alla fine hanno pesato sul suo girovita. Ma proprio con noi Loredana vuole dare un giro di vita al suo stile alimentare, al suo stile di vita. Dottor Ungaro. Ma diciamo che possiamo partire da questo concetto che abbiamo detto un attimo fa, cioè questa relazione stretta che c'è tra emozioni e alimenti fa sì che quando cerchiamo di compensare un determinato stato d'animo, come per esempio la tristezza, cerchiamo di compensarlo con quello che è più semplice, che è il cibo, e tra le varie maniere di avvicinarsi al cibo, lo stuzzichino, lo spuntino è sicuramente quella più facile. Quindi Loredana ha un problema che abbiamo in tantissimi, che è quello di ritrovarsi molto spesso ad aprire il frigorifero, ad andare in cucina e cominciare a mangiare qua e là quello che troviamo, e questo è un problema comune e non semplicissimo, perché sfugge molto al controllo consapevole e alla regolazione consapevole della propria alimentazione. Quindi quando poi chiedi ai pazienti come mangi, spesso si dimenticano completamente di raccontarti proprio questi stuzzichini che poi arricchiscono l'alimentazione talmente tanto di cibi calorici che sono davvero il problema. Quindi, allora, dottor Ungaro, potremmo chiedere ai nostri ascoltatori da casa, a casa, quali sono già gli spuntini e i piluccamenti, chiamiamoli così, che hanno fatto. Adesso sono le 11:18, da quando si sono alzati stamattina. Molti saranno in vacanza, noi li seguiamo in diretta qua lavorando, e quindi raccontateci gli spuntini che avete già consumato. Dottor Ungaro, potrebbe essere già un'indicazione anche sapere se gli spuntini si concentrano più nella prima parte della giornata o dopo il pranzo? Sì, sono tutte delle indicazioni molto utili, compreso quella della distribuzione nelle ore della giornata e anche della tipologia di spuntini, cioè suddividere la propria anamnesi alimentare nei pasti e negli spuntini è utile, perché ripeto che spesso gli spuntini vengono completamente dimenticati quando si ricostruisce la propria giornata alimentare. E possiamo anche dire, Nicoletta, che ci sono molte cose che accadono nel nostro organismo quando mangiamo, sono dei processi complessi che hanno a che fare con la regolazione della glicemia, con la produzione di insulina. Quando vengono stimolati nel modo giusto, con dei pasti completi agli orari giusti, questi sono dei meccanismi ovviamente buoni da cui dipende la nostra salute. Se sono stimolati troppo, c'è questa continua altalena della glicemia che costringe il pancreas a produrre molta insulina, e questo sicuramente non fa bene al nostro organismo e contribuisce a farci aumentare di peso, tanto che oggi si parla di calma insulinica come una delle strategie importanti per regolare il peso. E quindi, avendo così sentito la storia di Loredana e capendo che vuole anche perdere peso, mi pare che l'obiettivo di rientrare nella muta da sub tra l'altro sia molto bello, perché è un obiettivo molto operativo che ha a che fare anche con l'attività fisica. Quindi non più un leone imbranato Loredana, ma una sirena. Esattamente. Che dici, Loredana? Sì, questo era, scusate, un po' di raffreddore. Sì, esattamente, mi piacerebbe ritornare sirena, perché almeno potrei sguazzare finalmente. Dai, Loredana la sirena, questo mi piace, vedrai che tornerai sirena. E direi, Nicoletta, di usare quindi girovita come parola chiave, no? Perché è inteso sia come riduzione del grasso attorno alla vita, attorno all'addome, che abbiamo detto tante volte è un grasso che non ci fa bene, ma è anche sinonimo di svolta nel proprio modo di prendere la vita e quindi anche di mangiare. Vede, come siamo profondi, dottor Ongaro. Siamo bravi. No, lo so, sa che chi si loda si imbroda, ma è il giro vita è anche il protagonista del nostro quizzettone, vero dottor Ongaro? Sì, perché direi di riprendere un po' in mano l'argomento del grasso addominale e dire, e la domanda che farei è: perché i medici non amano la pancia? Se ce l'hanno anche loro. Brava, volevo dire la propria e anche... sarebbe anche da tenere sotto controllo. Ma vedo dei non medici amano... molto pancioni io. Sì, no, io no, Nicoletta, no. Cioè no, lei no, lei è io scolpito. Pratico quello che professo, ma ad ogni modo, perché non amano la pancia? Perché è antiestetica, perché rallenta il metabolismo o perché è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari? Quindi, tre opzioni: perché è antiestetica, perché rallenta il metabolismo o perché è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari? A grande richiesta, mi state chiedendo di regalarvi il libro che ho scritto con Alberto Pellai e Paola Reverso, e questo mi fa molto piacere. Allora, oggi con Laura Vanossi abbiamo pensato di abbinare il quizzettone di oggi proprio a una guida al benessere, perché è un po' la filosofia di questo libro, il benessere si impara. E intanto io voglio sentire subito Claudio da Bari e Loredana da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ero in macchina, ho ascoltato, mi sono sintonizzato su Radio 24 e diciamo l'ho sentita mentre parlava con il precedente dottore. Il dottor Aquilar. Sì, manca a farla apposta a napoletano. Io sono in macchina ma sto rientrando a Napoli. E mi ha colpito, le premetto che non ho problemi di dieta perché sono... non ho problemi di dieta perché sono abbastanza longilineo, sportivo, magro, non ho la pancetta, sì. Quindi diciamo che tutto sommato non ho di questi problemi, però mi ha colpito molto l'influenza che l'umore e il carattere ha sull'alimentazione. Certo. Io praticamente ho una giornata normale di lavoro piuttosto stressante e impegnativa, quando è il momento di andare a dormire non riesco a fare a meno di qualcosa, non so, che può essere dal pezzo di pane al pezzo di cioccolato, e non riesco a farne a meno, cioè come se fosse diventato una sorta di vizio, no? di assefazione a un piccolo rito mangereccio, una coccola. È un rito, guardi, mi sa più, sa quando uno incomincia a mangiare cioccolata che non ne può fare a meno. Sa quasi di droga, anche se una sorta di dipendenza, Claudio? E mi sfuggì uscita la allora intanto, intanto invito Claudio, invito gli ascoltatori ad approfittare della nostra pagina Facebook, scrivete che cosa qual è l'alimento, qual è il piatto a cui ricorrete. Il dottor Aquila l'ha legato ad uno stato emotivo, qual è l'allegria, la gioia, ma voi scrivete, il dottor Aquila vi darà una lettura di quella che Claudio definisce una sorta di dipendenza. Dottor Ongaro, prima di cena, molti ascoltatori mi stanno scrivendo che il momento degli spuntini è proprio quello davanti alla TV, dopo il pasto serale, prima di andare a letto. Ma Nicoletta, anche questo è un tema di cui abbiamo parlato spesso e si vede quanto generale sia il problema. Sicuramente è un meccanismo di compenso che ha a che fare con la ricerca di un appagamento dopo una giornata faticosa e difficile, appagamento che il cibo senza dubbio dà. Anche in questo caso, se uno però riesce a curare un pochino meglio la cena e le caratteristiche alimentari della cena, forse poi evita di passare l'intera serata davanti alla televisione mangiando delle cose in più che spesso non sono certo le più sane. La nostra futura sirena, che quando è che mangia più spuntini? Loredana? Ripeto, durante la mattinata? Sì. Sempre. Sempre. Sera. Ho sentito la voce che si affievoliva. Sempre. Sì, perché a parte che appunto facendo anche da mangiare, tante volte assaggio, spizzico. Certo. E lo spuntino è veramente buono, cioè mi piace mangiare. Mi piace, ma questo è giusto, il cibo è anche gratificazione, soddisfazione. Andiamo ad un'altra Loredana che ci chiama però da Roma. Loredana, buongiorno. Sì. Buongiorno, buongiorno. Dunque, la mia esperienza è un po' diversa, nel senso che soprattutto negli anni giovanili in cui facevo molto sport e la dieta doveva essere piuttosto rigorosa, niente fuori pasto, eccetera, ho imparato che il bisogno di contatto con il cibo può essere soddisfatto anche senza mangiarlo e quindi magari potrebbe esserci così l'opportunità di cucinare per altri, di fare altre cose e soprattutto uscire di casa e non fermarsi in solitudine, perché quello non è un buon viatico. Sì, la casa ci accoglie alle braccia, ma ci spinge anche a mangiare un pochino di più proprio perché siamo più comodi, come diceva il dottor Ongaro, al frigorifero, alla dispensa, si mangia tante volte anche per noi. A Loredana suggerisce, alla nostra Loredana, cucinare magari per altri e poi uscire. Tu cucini degli splendidi tortellini, noi li aspettiamo, tra l'altro, no? Diventa terapeutico. Filippo Aureggi, che è in regia qua la parte tecnica, è già all'idea, molto compiaciuto. Dottor Ongaro. Beh, la casa è ha questa doppia valenza. Da un lato ci può aiutare a pianificare e organizzare la nostra alimentazione nel modo migliore. Tante volte abbiamo detto che uno dei problemi delle persone è quello che, essendo fuori tutto il giorno, non riescono a pianificare il modo di alimentarsi. Allo stesso modo, se in casa però abbiamo mille tentazioni e abbiamo il tempo e la possibilità di andarcela a cercare, è chiaro che cadiamo nella trappola molto più facilmente. La chiave in questo caso è cosa compriamo e cosa teniamo nella casa. Summertime and leaving is easy. Fish are jumping and coven is a canzone che gli alti e bassi hanno scelto per te, Loredana. E in linea con noi abbiamo fatto un giro degli alti e bassi, infatti non abbiamo Andrea, ma in linea con noi abbiamo Paolo. Ciao Paolo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, ai tuoi ospiti e agli ascoltatori. Volevo sapere da Loredana se questa canzone che hanno scelto per te gli alti e bassi ti piace, ti riconosci, ti emoziona. Ti tocca alcune corde, come si dice? Mi emoziona e soprattutto Summertime è una delle mie canzoni preferite. Ma vedi che gli alti e bassi... Neanche a farlo apposta. Vedi? Che vedete lungo. Paolo, perché avete scelto proprio questa canzone? Ma, Nicoletta, guarda, ti dirò, io ho seguito la storia di Loredana, ho ascoltato gli interventi degli ospiti e non posso che confermare che questa scelta in fondo è proprio la scelta azzeccata. Summertime, oltre a essere un grande classico scritto da un grandissimo compositore del Novecento come George Gershwin, che è presente nel nostro album, il Mito Americano, Beh, Summertime riporta un po' il tema dell'estate. L'estate come la stagione calda, la stagione dei colori, la stagione che arriva dopo un freddo e grigio inverno. E rappresenta un po' forse anche l'obiettivo che Loredana può avere, riguardare all'estate con la serenità di ritrovare se stessa, la propria fisicità, la propria passione per le immersioni subacquee. E quindi quale canzone migliore che possa essere lo spuntino quotidiano per lei da sostituire a qualcos'altro e per poter uscire di casa, quindi se esce di casa e sta all'aperto, all'aria aperta, magari non ha le tentazioni degli spuntini casalinghi. Quindi il nostro augurio è proprio quello di poter avere come obiettivo l'estate come il modo per ritrovare un pochino se stessa e risolvere un pochino tutti quei problemi che l'hanno in qualche modo afflitta in questi ultimi anni. Quindi un augurio sincero da parte nostra. Grazie a Paolo degli Alti e Bassi, perché voi riuscite a scegliere sempre dei brani assolutamente in linea, che rispecchiano il profilo dei nostri ascoltatori e stanno avendo anche molto successo con gli amici di Essere Benessere. Paolo, salutami anche gli altri Alti e Bassi. Buona giornata. Speriamo di poterla prolungare. Ma eccoci qui a Mangia con me, insieme a noi Loredana, che ha deciso di cambiare il rapporto con la sua dieta, costretta a casa, inizia a mangiucchiare spuntini, avanzi della sera precedente, è un'ottima cuoca, e tutto questo alla fine ha appesantito un po' la sua linea. Loredana si descrive come un leone marino imbranato, perché a Loredana piace fare sub, adesso la sua muta le va un po' stretta, ma ha deciso di seguire Mangia con me e soprattutto i consigli dei nostri esperti per ritornare in forma. La sua parola chiave scelta dal dottor Ongaro, che è in linea con noi, è appunto girovita, nel senso di cambiamento ma anche di rimodellamento. Dicevamo che Loredana è una sportiva, le piace nuotare, fare sub, ma anche yoga. Indicazioni preziose per il nostro professor Stefano Tirelli, buongiorno, che è in linea con noi. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, Loredana ha bisogno dei suoi punti magici, che lei descrive anche nel suo libro Tecniche Complementari Sportive, che applica nel suo metodo anche nel suo centro di Milano. Sì, io credo che per Loredana possano essere utili due punti magici, che sono il punto 9 del polmone e il punto 4 del grosso intestino. Che caratteristiche hanno questi due punti? Hanno quelle innanzitutto di calmare, di rilassare, di tendere a sedare quelli che sono gli eccessi di nervosismo e, per quanto ho capito anche dalla scheda di Loredana, anche a volte gli eccessi di rabbia. Sono due punti molto importanti che troverete poi nel sito, ben illustrati in una foto. Comunque indicativamente il 9 del polmone, guardando il palmo della nostra mano, sta proprio tra le due linee del polso. Se io guardo il mio polso ho due linee e sotto io ne ho tre in realtà. Allora prendi la prima, quella proprio vicino alla mano, sì, con la seconda, ecco, sì, in mezzo a quelle, sotto al pollice, sotto alla base del pollice, c'è proprio il punto 9 del polmone, è un punto fortissimo che aiuta anche a migliorare, nell'ambito delle sedute di trattamenti shiatsu, la respirazione. E l'intestino 4 invece è, unendo il pollice e l'indice, sì, ma guardando questa volta il dorso della mano, sì, vedrò spuntare una collinetta formata da alcuni muscoli. È vero. Proprio, ecco, alla fine della linea che vedete tra il pollice e l'indice c'è proprio il punto 4, un punto molto importante per aumentare le nostre energie, ma è altrettanto importante per rilassare il nostro sistema nervoso. Allora, quindi i punti magici sono 9 e 4. Perfetto, per Loredana e per tutte le persone che si riconoscono nel profilo di Loredana. Chi suggerisce questi punti magici, professore? Allora, tutte le persone che hanno stati di ansia, stati di eccesso di contrazione anche muscolare, quelli che si sentono per esempio il trapezio molto contratto, il collo molto contratto, oppure durante l'attività fisica sentono i muscoli, per così dire, duri, troppo duri e non elastici. E in più però a Loredana io consiglierei anche di accelerare un pochino il suo allenamento di nuoto, perché lei fa le sue belle vasche in modo molto rilassato. Io però credo che il metabolismo debba accelerare un pochino, anche perché se lei ogni 7 vasche ne fa una ad una velocità molto molto molto più rapida, permette anche al suo sistema nervoso di scaricare il nervosismo. E ultima cosa che troverete sempre sul sito di Mangia con me, con le foto indicate, due esercizi di training energetico, quindi due allungamenti muscolari che agiscono però anche sul sistema energetico, in particolare del meridiano del polmone e del meridiano dell'intestino. Queste sono indicazioni che a Loredana non sono nuove, perché Loredana pratica yoga. Loredana, ti ritrovi? Sì, mi ritrovo perché veramente le mie vasche sono tranquille, però appunto... Dicevo, come mai non perdo mai? Vogliamo un po' di sprint. Ogni sette vasche. Il professor Tirelli oggi ci ha dato proprio i numeri. 9, 4 ogni sette vasche? Sì. Magari poi diciamo ce li giochiamo pure. Mi tiro anche veramente un po' più su, mi dà un po' più di grinta, perché dopo le vasche diventano anche monotone, così ne faccio anche di più forse. Grazie allora al professor Tirelli, le faremo sapere, e Loredana diventerà un po' il nostro caposquadra, per così un nostro esempio a cui ispirarci, soprattutto se come lei tendiamo a utilizzare spesso gli spuntini durante la giornata, nella prima parte della giornata o magari una volta tornati a casa davanti alla TV. 800 24 00 24. Professor Tirelli, buongiorno, grazie, ci sentiamo presto. Buongiorno a tutti, grazie, buona energia a tutti. Ciao a tutti. Grazie, buona energia a tutti. Ha sentito, dottor Ongaro? Ho sentito e mi piace molto questa cosa, perché tra l'altro diventa veramente questo approccio a 360 gradi di cui si parla sempre, poi però si fa fatica a farlo, e si capisce come si può lavorare sulle interconnessioni. Allora, per perdere peso e migliorare la propria condizione fisica, non soltanto il consumo delle calorie, ma anche l'attivazione dell'energia metabolica di cui Stefano Tirelli ci parla molto spesso. Dottor Ongaro, voglia di spuntini, a volte il desiderio di mangiare qualcosa non è dettato dal bisogno di rifornire il nostro organismo di energia, si mangia, come abbiamo detto, anche per ingannare la noia, per abitudine, per scacciare un po' la malinconia, si mangia anche per concedersi una coccola. Ci sono spuntini allegri e spuntini un po' più malinconici, ma quali sono le caratteristiche di un buon spuntino, dottor Ongaro? Beh, allora Nicoletta, diciamo rapidissimamente che intanto lo spuntino più frequente, l'incursione sul cibo più frequente è quella dettata da ragioni psicoemotive, non quella dettata dalla fame, cioè è molto più raro che si corra appresso al cibo per ragioni veramente legate alla fame che per ragioni legate allo stress, per cui lavorare anche sulla riduzione dello stress è fondamentale. Poi gli spuntini hanno oggettivamente, possono avere delle caratteristiche differenti e anche a seconda del momento della giornata, quindi non devono necessariamente essere tutti uguali per tutte le persone e per tutti i momenti della giornata. Quanti spuntini possiamo concederci? Perché abbiamo capito che continuando a mangiare un po' perdiamo anche l'idea, no, di quello che effettivamente abbiamo introdotto, tanto che lei, dottor Ongaro, ci ha raccontato che i suoi pazienti dicono ma non mangio tanto, e poi magari mangiano tutto il giorno piccole spilucchini. Dottor Ongaro, gli spuntini, quanti possiamo permettercene? Uno a metà mattina, uno al pomeriggio, tassativamente, o possono essere di più? Ma io credo che questi siano quelli accettabili, cioè un metà mattina o un metà pomeriggio sono due spuntini che possono non solo essere accettabili, ma addirittura anche essere utili per poi non cadere in errori più grossi durante il pranzo e la cena. Più di così diventano un po' tanti, soprattutto se lo spuntino poi diventa un post cena, quello è proprio qualcosa che dobbiamo cercare di limitare. Allora noi li prepariamo insieme al nostro Stefano Polato. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, eccomi qui. Che sta riscuotendo un grandissimo successo, Stefano. Bene, bene, anche qui siamo qui oggi per provare a snocciolare, proprio il caso di dirlo, qualche idea per i nostri spuntini giornalieri. Quindi iniziamo da un primo spuntino, allora dottor Ongaro. Allora, potremmo provare a fare uno spuntino proprio per chi ha fatto una buona colazione, cioè per quegli ascoltatori che ci hanno seguito bene e hanno imparato a fare una buona colazione, che tipo di spuntino devono fare, che deve naturalmente essere abbastanza leggero a metà mattina. Quindi parola sì. D'ordine, leggerezza. Leggerezza, quindi un bel frutto di stagione, abbiamo le mele in questa stagione che sono eccezionali, accompagnate da una noce. Se vogliamo azzardare qualcosa di più, una crema di nocciole fatta da noi con solo i prodotti naturali quali cacao, nocciole e olio di girasole da fare in 10 minuti con l'aiuto di un frullatore. E di cui Stefano ha messo la ricetta naturalmente sulla pagina di Mangia con me. Abbiamo il tempo per anche un altro spuntino, magari per uno spuntino per le persone che si ritrovano in una situazione assolutamente opposta, quelle che la colazione proprio non la vogliono fa. Esatto, per esempio per chi non ha imparato a far colazione lo spuntino invece deve essere un po' più energetico per evitare anche di arrivare troppo affamati al pranzo. Ecco qua la nostra proposta, anche questa la trovate nel sito di Mangia con me, mousse con frutti di bosco e tofu, mandorle e cioccolato fondente. Ecco che qui abbiamo le proteine del tofu, gli acidi grassi essenziali delle mandorle e la giornata ci parte sicuramente in discesa con l'aiuto del cacao. Adesso mi fate già venire voglia, non li ha preparati però Stefano per noi, no. Almeno mandaci la foto. Allora adesso noi andiamo questa volta, è vero, a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Vi ricordo perché ai medici non piace la pancia, perché è antiestetica, perché rallenta il metabolismo, perché è un fattore cardiovascolare. A questo quizzettone semplice, potete partecipare chiamando l'800 24 00 24 per ricevere a casa la guida al benessere. Dottor Ongaro, pensiamo anche alle persone che praticano regolarmente attività sportiva e magari approfittano delle ore serali per allenarsi. Quindi uno spuntino? Beh, qui ci deve essere uno spuntino ricaricante, cioè ovviamente se pratichiamo attività sportiva nella seconda parte della giornata o addirittura la sera, abbiamo in parte già utilizzato le risorse che ci ha dato la nutrizione quotidiana per lavorare, per portare avanti la giornata, e quindi prima di fare attività fisica, almeno un'oretta e mezza, due ore prima, bisogna fare uno spuntino che sia ricaricante. E Stefano che ci dice questo spuntino ricaricante per lo sportivo? Sicuramente delle barrette energetiche con cereali integrali soffiati, frutta fresca o essiccata, cioccolato, un filo di miele e un po' di semi di sesamo. Amalgamiamo il tutto e inforniamo per 7-8 minuti. E facciamo la ricetta? Le nostre porzioni e ce le portiamo dove vogliamo. Possiamo anche prepararle per gli amici. Le barrette di Mangia con me, suggerite da Stefano Polato con la supervisione del nostro dottor Ongaro. Stefano, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. E adesso è tempo di dare il benvenuto al professor Andrea Segre, professore dell'Università di Bologna e presidente di Last Minute Market, autore di Cucinare senza sprechi, che abbiamo soprannominato il professor antisprechi. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Professore. Oggi possiamo parlare della vita degli alimenti che, come poi tutte le vite, finisce. A un certo punto gli alimenti scadono, abbiamo parlato di etichette, di scadenza e quel consumarsi entro tipo il latte oppure preferibilmente entro la pasta, e la domanda che molti mi fanno: ma si possono mangiare questi alimenti scaduti? Ecco, la risposta è secca, no, non si possono mangiare, anche se suggeriamo così un po' di buonsenso e l'uso di un nostro laboratorio personale che abbiamo sempre disponibile, cioè il naso, l'olfatto, il gusto, insomma i nostri sensi che abbiamo assopito da qualche parte. Però ecco, gli alimenti scaduti in realtà hanno degli usi alternativi e possono non essere mangiati, però con qualche accorgimento si può fare qualcosa in modo da raggiungere quell'obiettivo che ci siamo posti nel nostro percorso, far dimagrire il bidone della spazzatura, sì. Quindi evitare di gettarli nella pattumiera. Allora, il mio preferito e nel ricitario che abbiamo fatto, anzi che ha curato Lorenza Pliteri, e lo yogurt. Io sono un grande consumatore. Ecco, se è scaduto non si mangia, 10 minuti sul lottone, poi si rimuove con un panno umido e viene fuori una lucidatura perfetta. Poi c'è anche il burro che, scaduto vecchio, si può usare per sciogliere le macchie di catrame sulla pelle oppure sui tessuti di cotone, di seta, sì, di lana. Poi anche il latte si può usare, serve per pulire i guanti e le scarpe di pelle bianca, oppure anche si possono lucidare le scarpe di vernice. Poi l'albume delle uova, se viene sbattuto leggermente, serve a togliere le tracce di chewing-gum dalla stoffa, che peraltro sembra una cosa impossibile. E invece l'albume ce la fa. quindi un po' il nostro corso di economia domestica va avanti con questi piccoli suggerimenti che le nostre nonne utilizzavano perfettamente e che invece noi ci siamo in questo grande oblio dimenticati. Grazie professor Segre, alla prossima pillolina. Buona grazie giornata. Grazie a voi. E prima di salutarvi voglio segnalarvi un appuntamento che mi sta particolarmente a cuore, la quinta edizione della conferenza internazionale organizzata da Women Technology. In linea con noi abbiamo l'ideatrice del progetto, Gianna Martinengo. Benvenuta. Ciao Nicoletta, Tecnovisionaria 2011. È vero. E saluti a tutti gli ascoltatori che ti seguono. Il 6 di novembre un appuntamento che penso molto in linea con Mangia con me. Perché Gianna? Perché tre saranno le tavole rotonde. Una sarà sull'alimentazione e salute, perché come sostenete e dite correttamente l'alimentazione condiziona fortemente la nostra salute, quindi ci sarà l'esigenza di comprendere sempre meglio la funzione di alcuni cibi, dei componenti presenti negli alimenti. Poi un altro tema importantissimo, la sostenibilità, quindi lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile anche attraverso l'innovazione delle biotecnologie, ma anche e tutta la problematica legata all'alimentazione e identità del territorio. Ed infine una terza tavola rotonda a me particolarmente cara anche per ragioni professionali, quella dell'innovazione. L'innovazione nella comunicazione, nel marketing, nel packaging, nella trasformazione dei cibi, nei metodi di conservazione. Ma se io dovessi trovare due parole chiave per riassumere tutta la conferenza che includerà più di 30 relatori e relatrici, ci sono due parole chiave che mi colpiscono. Uno è sicuramente responsabilità sociale e l'altra è etica non solo come lotta agli sprechi, come bassa produzione di CO2, come filiera corta eccetera, ma etica come motore dell'innovazione. E come sai bene il ruolo delle donne in questo mondo è particolarmente strategico. Ecco, dillo tu Gianna. Sia da un punto di vista storico, perché le donne da sempre nutrono il pianeta, no? Brava, questo, le donne nutrono il pianeta. E si Gianna. Formano la coscienza alimentare a casa e fuori e nell'ambito sociale. Per chi volesse seguirvi, ma non può essere naturalmente a Milano, un riferimento Gianna? Allora, su www.womentech.info potranno seguire in diretta sia la conferenza che il premio Le Tecnovisionarie dedicata a tutte quelle donne che giovani e meno giovani, nell'impresa, nella ricerca, nei media, nella pubblica amministrazione sono comunate da passione, senso di responsabilità, merito, trasparenza e visione del futuro. Vi aspettiamo tutti e tutte soprattutto. Tutte, grazie a Gianna Martinengo. E noi abbiamo una donna in linea con noi, è Livia dalla provincia di Milano. Livia, buongiorno. Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Che è veramente... Grazie molto Livia. Intelligente. Dalla regia mi dicono. Bene da lei. Ma grazie, che complimentoni Livia, mi dicono che lei ha la risposta al nostro quizzettone. Ho la risposta, il grasso addominale è un indice di rischio cardiovascolare. Bravissima Livia, guida al benessere per Livia, dottor Ongaro. Abbiamo un secondo. Alla prossima puntata. Alla prossima puntata e buona giornata, noi ci sentiamo domani. Grazie.